se Mersin la ingannerò, fingendo nome sesso, che vedo egli è grifone. Onde le udita i natali traesti, non il mio bel sangue, in patra io nacqui. Ingrato, e ne scoprirò. Ti grindo! Non è questo legile! Ma se lo scopro, cerca la morte sua! Ma chi sei? Che bravi! Vanni, m'attendi, avrai caro.